Vuoi organizzare una manifestazione sportiva? Se vuoi organizzare una manifestazione sportiva al di fuori degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche del quartiere, ma su suolo pubblico, puoi chiedere informazioni al quartiere. Devi scrivere all'indirizzo email indicato qui sotto. Se vuoi organizzare una manifestazione sportiva in un impianto sportivo o in una palestra scolastica del quartiere, devi fare una domanda al quartiere. Per fare la domanda al quartiere, devi usare un modulo che trovi in una pagina internet. Trovi l'indirizzo della pagina internet qui sotto. Se hai bisogno di altre informazioni, puoi vedere una pagina internet del quartiere. Trovi l'indirizzo di questa pagina internet qui sotto.